Blu Radio Veneto. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Abbiamo ascoltato nella precedente puntata alcune informazioni utili sul tema della violenza degli uomini alle donne. Oggi entreremo nel dettaglio dei servizi offerti alle donne e conosciamo, attraverso le parole della presidente Rita Giannetti, l'attività di Telefono Rosa, centro antiviolenza di Treviso. Noi come centro antiviolenza siamo in via Roma 20, il nostro numero di telefono è lo 04 22 58 30 22. L'attività del centro antiviolenza funziona dal lunedì al venerdì. Gli orari per l'accesso anche direttamente da parte delle donne all'accoglienza sono dalle 9:30 alle 12 dal lunedì al venerdì e dalle 15:30 alle 18 per quanto riguarda i pomeriggi, sempre dal lunedì al venerdì. Un'operatrice di accoglienza raccoglie la prima richiesta della donna, invitandola però a prendere un appuntamento per capire bene la sua situazione. Una volta che la donna ha ottenuto l'appuntamento, questo avviene nel giro di pochissimi giorni, la donna poi ha la possibilità di accedere anche a un servizio di consulenza legale con una delle nostre avvocate, e se necessita anche di un sostegno psicologico le viene fissato anche un appuntamento con le psicologhe. In questo momento nel centro antiviolenza sono attive 4 avvocate, 4 psicologhe e 5 operatrici per l'accoglienza e l'ascolto. Una volta che la donna ha potuto usufruire di queste diciamo 3 tipologie di intervento, se ha la necessità di sentirsi anche più seguita e se ha voglia di cominciare anche un percorso di recupero di se stessa, abbiamo anche attivo ogni 15 giorni il sabato mattina dalle 10 alle 11:30 il gruppo di auto mutuo aiuto. Per contattarci è molto più facile chiamare il 1522 e verrete dirottate direttamente al nostro numero di telefono. Potete anche visitare la pagina del centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso Onlus su Facebook. Ed ora con noi il direttore generale delle aziende ULS della provincia di Treviso, Francesco Venazzi, che ci parla del ruolo del primo soccorso. L'ULS numero 9 di Treviso, rispetto al problema importante sulla violenza delle donne, sostanzialmente attiva un percorso, quindi un protocollo di attuazione rispetto a questo, che fa partendo dal pronto soccorso di Treviso, dove gli operatori che individuano e verificano la necessità di valutare la persona che può essere aver subito violenza, viene messa posta in una situazione ambientale diversa da quella del pronto soccorso, viene allertata la polizia, il posto di polizia che è all'interno dell'ospedale, e la donna poi viene presa in carico dalla nostra psicologa, dal nostro gruppo di psicologhe dell'ospedale. Questi poi, se loro sono d'accordo, verranno ovviamente seguite dai nostri psicologi, dei nostri servizi anche consultoriali, e poi ci sarà chiaramente un contatto anche con il centro contro la violenza della donna per trovare soluzioni anche, chiamiamole così, alternative alla domiciliarità, che è a rischio per la donna e magari anche per i figli. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.